Gli ascoltatori più anziani avranno senz'altro letto a scuola quel passo delle mie previsioni di Silvio Pellico in cui Pietro Maroncelli, in seguito a un'infermità contratta nel tetto carcere dello Spielberg, deve essere, diciamo così, operato a una gamba. E ricorderanno, nonostante lo sgradevole sentore di abiura che promana da quel libro, ricorderanno i toni commossi con cui vi si rievoca la forza d'animo di chi, oltre a sottoporsi senza fiatare a un'amputazione senza anestesia, trovava persino il modo di esprimere la sua gratitudine all'imperiale regio chirurgo che l'aveva operato, donandogli, se ricordo bene, una rosa. Il povero uomo, evidentemente, pur non avendo rinnegato come il Pellico gli ideali liberali che lo avevano portato in galera, riteneva nel caso di potersi fidare del sistema sanitario giudiziario asburgico, un sistema di cui il chirurgo in questione, che era medico militare di stanza in un istituto di pena, faceva parte a tutti gli effetti. Né in verità questa fiducia non doveva essere mal risposta, visto che dopo pochi anni il Maroncelli sarebbe stato oggetto di un atto di clemenza e restituito alla libertà senza alcuna necessità di pentirsi, una cosa che nell'Italia di oggi non gli capiterebbe di certo. Comunque una fiducia di questo genere in Bettino Craxi certamente non alligna. Anche lui deve essere operato, anche se gli si prospetta un intervento meno drastico di quello descritto dal Pellico, ma ad affrontarlo in stato di detenzione non ci pensa nemmeno. Rifiuta persino una prigionia puramente formale come gli arresti domiciliari presso l'ospedale scelto per l'intervento. E i motivi li conosciamo tutti: l'ex leader socialista si considera vittima di un'odiosa persecuzione politico-giudiziaria, non riconosce ai suoi giudici il diritto di disporre della sua persona e in pratica si sta giocando la pelle nel tentativo di ottenere quella ragione che ritiene gli sia dovuta. Di fronte a tanta ostinazione si sarebbe quasi tentati di esprimere al vecchio combattente una pur riluttante ammirazione. Anche chi come me crede che il bilancio politico dell'attività di Bettino Craxi sia stato per il paese un disastro e che ritiene che nel suo caso una volta tanto i riscontri giudiziari fossero più che sufficienti per una condanna esemplare, può capire lo stesso certe sue argomentazioni. Per esempio, il perché solo io che continuo a lanciare i suoi accusatori, pur non avendo valore esimente in sede penale, rappresenta un problema storico e politico che un giorno o l'altro bisognerà decidersi ad affrontare. E solo chi è senza peccato dovrebbe scagliare la prima pietra, ma l'Italia è il paese in cui i peccatori più incalliti sono sempre entusiasti di partecipare alle lapidazioni altrui. Però ci sono delle cose che Craxi non riesce proprio a capire. Provate a rileggere la sua ultima dichiarazione come la riportano i giornali dell'altro ieri, in quel passaggio dove afferma che, dato che vive in Tunisia in una posizione legale internazionalmente riconosciuta sotto la protezione di esplicite norme del Trattato Europeo dei Diritti dell'Uomo, la sua condizione può essere definita a pieno titolo come di esule politico, non essendo lui in nessun caso un latitante né un fuggiasco, per cui chi in Italia continua a trattarlo, definirlo come tale, per ragioni di comodo di demagogia piazzaiuola, dichiara deliberatamente il falso. Belle parole, se vi piace il tono, ma proprio nulla di più. A Craxi il fatto innegabile di godere di diritti e protezioni garantite a livello internazionale sembra la migliore dimostrazione della propria innocenza. Nessuno gli ha mai spiegato che anche i colpevoli hanno i loro diritti e che anche loro possono e devono godere della protezione delle strutture internazionali preposte. Lui evidentemente i colpevoli li schiaccerebbe sotto il tallone. Sarà per questo che insiste nel rifiuto di riconoscere il proprio stato di latitante e fuggiasco, anche se l'unica cosa di cui nel suo caso nessuno può dubitare è il fatto che dall'Italia è fuggito, anche se allora affermava di agire per motivi di salute, gli stessi per cui oggi vorrebbe rientrare, e che attualmente ne latita, nel senso che semplicemente non c'è, perché questo latitare vuol dire. Certo, tutti, compreso i suoi giudici, sanno dove si trova, ma per motivi di diritto internazionale non possono andarlo a prendere, e questo fa una certa differenza. Il che naturalmente non significa che non lo si possa considerare un esule politico, Dio ne scampi, e di fattori politici nei comportamenti che l'hanno fatto condannare non ne mancavano certo, e tanto basta. E poi esule e latitante non sono termini incompatibili. Tutti gli esuli politici sono tali perché se fossero restati nel loro paese avrebbero subito persecuzioni e condanne, altrimenti perché avrebbero dovuto lasciarlo. Gli esuli, per chi li cerca, sono dei latitanti e dei fuggiaschi, e i latitanti e i fuggiaschi, per chi ne condivide le motivazioni, sono esuli. È tutta questione di punti di vista. Appunto. Se c'è una cosa che Craxi non ha mai saputo fare è tener conto dei punti di vista altrui, e non si addiceva né al suo decisionismo né al concetto che aveva di sé, altrimenti non avrebbe mai creduto, lui che ha sempre guidato o appoggiato dei governi di coalizione in una posizione più debole di quella degli altri coalizzati, non avrebbe mai creduto di essere lui al centro del sistema politico. È stato un maestro di tattica ma un modestissimo stratega, e ha sempre, perché ha sempre creduto che l'unico punto di vista che contasse fosse il suo. E di questa pervicace convinzione purtroppo sta scontando le conseguenze. Auguriamovi che i suoi guai di salute si risolvano nel migliore dei modi, perché per uno come lui non c'è proprio nient'altro da fare.